denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Buona giornata da Mauro Meazza, buona giornata a Deborah Rosciani che questa mattina invece è in ferie, qualche giorno di ferie gliel'abbiamo voluto proprio concedere a Deborah, ma tornerà con il 2018 più pimpante e più preparata che pria, come direbbe il poeta. Allora, questa mattina vogliamo parlarvi di assicurazioni. L'assicurazione perché? Perché l'assicurazione è sempre un oggetto per noi italiani un pochino inviso, non sempre ci convince, spesso rimaniamo diffidenti, spesso addirittura la rifiutiamo, a parte quelle che sono, come sappiamo, obbligatorie, come ad esempio la RC Auto, che però ugualmente sta in cima a uno dei prelievi forse più detestati. Parleremo di assicurazioni con due ospiti. Una è già qui con me in studio, è Federica Pezzatti, collega del Sole 24 Ore. Buongiorno Federica. Buongiorno, buongiorno a tutti. E insieme è collegato con noi Fabrizio Premuti, presidente di Consumer Italia, Consumer col K. Buongiorno Fabrizio. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, parliamo sì di assicurazioni anche perché domani con il Sole 24 Ore in edicola troverete la nuova uscita di Nuovo Risparmio. Come sapete sono queste guide che stiamo pubblicando ogni giovedì. Ogni giovedì presentiamo un tema legato agli investimenti e al risparmio. Il linguaggio con cui sono fatti questi fascicoli, sono fascicoli da una sessantina, settantina di pagine, è un linguaggio molto semplice, molto schietto, molto semplificato anche in qualche passaggio, in modo che tutti noi possiamo avere almeno le conoscenze di base per affrontare un tema. Abbiamo parlato fino adesso di parecchi temi, tra cui i conti correnti, la tecnologia, i famosi bitcoin che tanti pensieri ci danno anche in questi giorni di Natale con questa altalena, come scegliere il consulente, come comprare casa e quindi accendere un mutuo. E questa volta, cioè domani, giovedì, troverete il volume dedicato alla scelta della polizza assicurativa per le più varie finalità, perché vanno appunto dalla copertura di rischi per la salute, ma anche investimenti per i figli, investimenti per il futuro in generale. Se avete domande, dubbi, perplessità, cose che volete chiedere a Federica Pezzatti o a Fabrizio Premuti, allora potete come al solito telefonarci. Per intervenire in diretta il numero è 800240024. Se volete mandarci un SMS o intervenire via WhatsApp, allora il numero è 349-238-6666. Poi vi ricordiamo che questa puntata può essere riascoltata in podcast dal sito della radio di Radio 24, www.radio24.it. E allora fate tutte queste premesse e in attesa dei vostri messaggi, come sapete siamo rigorosamente in diretta qui con i nostri ospiti, salutiamo e ringraziamo Peter Bescapè che è dall'altra parte del vetro e rende possibile il fatto che miracolosamente la mia voce giunga fino a voi. Insieme a lui la dolcissima Chiara Compagnoni che è assistente al programma in questi giorni. Caro Peter, ti voglio però fare prima un po' di rassegna stampa. Mi mandi quell'effettino di cui abbiamo parlato? Piange il telefono perché lei non verrà. Perché piange il telefono? Ma qualcuno potrebbe piangere, qualcun altro potrebbe non piangere. Parliamo di telefono e di bollette a 28 giorni. Allora, se avete avuto occasione di ascoltare altre puntate di Due di Denari in questi mesi, sapete che un nostro punto particolarmente insistente è quello di queste bollette a 28 giorni. È intervenuta una modifica normativa. Le bollette dovranno avere una cadenza mensile a mese. Questo adeguamento scatterà dal 2018, nel corso del 2018. E fin qui diciamo cose che vi abbiamo segnalato. Cosa vi segnalo oggi? Che sul Sole 24 Ore, che trovate in edicola, pagina 16, un articolo di Andrea Biondi ci informa che c'è un rischio di maxi rimborsi da parte dei gestori, cioè potrebbero dover restituire a noi utenti che abbiamo avuto le bollette a 28 giorni il quantum, il maggiorato per dir così, dal 23 giugno del 2017 fino appunto a tutto l'anno. Questo in forza dell'applicazione di una decisione dell'Agenzia per le Comunicazioni. Ho detto potrebbero dover restituire, perché naturalmente la pratica legale e il quasi inevitabile contenzioso non saranno cosa da poco. Però il collega Biondi stima che siano in gioco diverse centinaia di milioni che potrebbero, chi lo sa, ritornare anche nelle nostre tasche. Questa come prima segnalazione, e poi invece una segnalazione la faccio a Peter Bescapé. Ti voglio dire che sempre da Sole 24 Ore di oggi si annuncia per questa sera, caro Peter, un derby tra Milan e Inter da 660 milioni di debiti. E ti voglio anche dire che abbiamo già vinto noi dell'Inter, perché abbiamo ben 360 milioni di debiti e voi altri solo 300. Quindi non so se c'è da gioirne, tuttavia i vostri debiti, come spiega Carlo Festa dottamente e avidamente sulle pagine di Finanza del Sole 24 Ore, ebbene i vostri debiti sono un po' più rischiosetti, per dire così, dei nostri. E tutto ciò premesso, andiamo all'argomento del giorno, parliamo di assicurazioni. Parcheggiato col mio camioncino, tirai il freno a mano con questa mano qua, quando lo potevo tirare il freno a mano, e parcheggiai, ero lì tranquillo quasi per addormentarmi, pum! Ma arriva una botta di dietro, ma tremenda! Ho sbattuto la testa nel vetro davanti e sono svenuto. E mi sono svegliato così. Anzi, mi è andata bene. C'è gente che rimane cieca, sorda, paralizzata. Hai capito? E mi dovreste dare di più! Mi sono rovinato, anzi, non posso fare più niente, né mangiare, leggere, scrivere. Mi dovreste dare il doppio, il triplo, il quadruplo, perché siete voi assicurazioni! Va bene. Volevo solo dirle che nel mio mestiere incontro un sacco di imbroglioni. Non è il suo caso, per carità. Allora, mi dovreste dare di più, ma nel mio mestiere, risponde l'assicuratore a Roberto Benigni, incontro un sacco di imbroglioni. Insomma, in queste poche battute, forse Federica Pezzatti, un po' tutto il rapporto conflittuale, difficile che abbiamo con le assicurazioni, tu dici soprattutto in Italia. Sì, diciamo che poi anche l'RC auto spesso è così cara, proprio perché nel passato soprattutto ci sono state parecchie queste famose truffe, micro lesioni, il famoso colpo della frusta che è difficilmente verificabile, e quindi soprattutto in passato, insomma, se si tamponava era un classico chiedere comunque il risarcimento. Questo poi ha comportato un elevato esborso per i sinistri, e chiaramente questo poi si riflette anche sulle tariffe che noi tutti paghiamo, quindi diciamo che da questo punto di vista non è stato proprio un bel esempio. Viceversa, però, possiamo anche dire che molto spesso le compagnie ci mettono del loro per inimicarsi un po' i consumatori, perché non sempre sono così solerti nelle liquidazioni, spesso ci sono dei fattori di rischio che sono esclusi dalle coperture, per cui è passato un po' il concetto che la compagnia non paga quasi mai o paga poco, per cui in pochi poi si assicurano dai rischi più consueti correnti, della, diciamo, vita, e però poi dopo, quando succedono, ci troviamo a dover magari sborsare di tasca nostra dei costi che non sono indifferenti. Sì. Federica, qualcuno dice: noi non ci assicuriamo perché siamo un paese di scaramantici, cioè di gente che ha paura che creandosi una copertura dopo in qualche modo, come dire, si chiama quasi l'evento funesto, l'evento infausto. Ma qui c'è un problema proprio culturale che molto spesso anche le reti di vendita non affrontano, per cui hanno più facilità nel proporre magari prodotti di investimento e evitare certi argomenti, che purtroppo invece sono proprio quelli che bisognerebbe stressare. Poi un altro grosso problema nel nostro paese è che abbiamo avuto delle coperture pubbliche che hanno sempre aiutato, e quindi le persone non si sono ancora rese conto di come la scopertura che stiamo per toccare con mano peserà sul loro futuro, per cui di fronte appunto a pensioni che bene o male ti garantivano l'80-90% di quello che guadagnavi negli ultimi 5-10 anni di lavoro, adesso ci troveremo con delle scoperture molto più elevate, e questo avrà anche delle conseguenze di lungo termine non da poco. E quindi proprio copertura pubblica anche delle spese sanitarie ricorrenti, quindi anche un buon servizio pubblico pubblico che ci assiste sempre per qualsiasi evenienza, e cultura che poco proprio manca anche da parte delle reti di vendita, che evitano di parlare di certi argomenti, o insomma, oppure lo fanno dicendo ma sì, si assicuri che porta fortuna. Ecco, queste sono le classiche frasi che ci fanno capire come in realtà il rischio venga poco valutato, invece proprio il rischio è alla base della nostra vita. E inoltre, peraltro, se noi avessimo una migliore pianificazione della nostra, anche delle coperture necessarie per stare tranquilli, ci potremmo anche permettere di investire meglio risparmi che di solito vengono utilizzati proprio ai fini previdenziali e anche di previdenza da eventuali imprevisti, per cui si dice tengo tutto magari sul conto corrente o in investimenti poco rischiosi, proprio perché se succede qualcosa, questo certo. Se succede qualcosa potremmo liberarcene se avessimo una copertura, diciamo, a 360 gradi. Quindi utilizzare meglio, diciamo, pianificare complessivamente meglio le varie entrate, le disponibilità che ci sono in famiglia, scoprendo che più che tenere una liquidità sul conto corrente, sappiamo che ormai gli interessi sono certo, il prefisso telefonico sarebbe internazionale. Necessario, pianificare meglio gli investimenti e coprirsi, e soprattutto in alcune fasi della vita, per cui penso a chi diventa genitore, magari si può munire di una polizza per eventuali imprevisti. E anche qui vedi, io stessa scaramantica, perché cioè certi argomenti anche per giornalisti piuttosto che per anche capire da attori, no? Quando si parla di alcune cose tu vedi gli amuleti che escono, ecco, quindi invece dobbiamo superare queste cose, perché poi vediamo che ad esempio quando succede il terremoto poi devi aspettare che lo Stato intervenga. Lo Stato interviene, ma non è detto che sia tenuto a farlo per il futuro, per cui anche dei sondaggi recenti evidenziano come l'italiano pensi che lo Stato in caso di calamità e di disastri debba sempre intervenire. In realtà per fortuna finora l'ha fatto, però questi 3 miliardi l'anno che mediamente hanno speso per coprire tutte le catastrofi si potrebbero veicolare in un sistema parassicurativo misto pubblico-privato, e questo eviterebbe degli shock ai nostri bilanci e nello stesso tempo una maggiore condivisione proprio con il ruolo degli assicurativi, che è quello di coprire dalle catastrofi. Federica, tu hai citato proprio il caso del terremoto. Allora, noi purtroppo lo sappiamo, siamo un paese sismico e con una periodicità frequente ci tocca fronteggiare questo tipo di interventi. Naturalmente scatta come sempre in questi casi la solidarietà, e ci mancherebbe altro, ma io su questo chiamo proprio in causa Fabrizio Premuti, perché nella legge di bilancio, questo mostro da 1247 commi, però ce n'è uno anche che dice che c'è la polizza, insomma c'è una spinta, un incentivo per la polizza, diciamo, anticalamità naturali. Ce la spiega meglio magari Premuti. Buongiorno Fabrizio, dica. Buongiorno a voi, buongiorno. Sì, effettivamente, ed era ora che ci si pensasse, viene un attimo posta all'attenzione dei cittadini, degli italiani, che le polizze per le calamità naturali sono polizze che vanno assolutamente pensate e sottoscritte. Ma questo, voglio fare un discorso pratico su questo. Questo lo dovremmo pensare in automatico già nel momento in cui decidiamo di investire in un immobile, perché quando investiamo in un immobile non stiamo facendo l'acquisto del litro di latte o del chilo di pane, ma stiamo facendo un acquisto che durerà forse per tutta la vita, quindi è uno degli acquisti più importanti per il cittadino e per la famiglia. E non pensiamo che questo acquisto può essere dissolto nel giro di pochi secondi soltanto perché viviamo in un paese che purtroppo è a rischio dal punto di vista dei terremoti, dal punto di vista delle eruzioni vulcaniche, perché non ne abbiamo di recenti, ma nel passato hanno fatto disastri, pensiamo alla Sicilia, all'Etna, o a quello che potrebbe succedere se un giorno si svegliasse Napoli o le stesse Solfatare di Pozzuoli, che sono comunque un vulcano. Nessuno lo pensa, ma quello comunque è un cratere enorme. E poi c'è il rischio geologico, no, Premuti? Perché noi abbiamo anche un problema di sgoverno del territorio in molte parti d'Italia. Esatto, le frane le subiamo tutti i giorni, adesso siamo in allarme in Liguria per quello che sta accadendo con l'acqua che sta venendo giù, quindi le alluvioni. Insomma, io credo che basta leggere il giornale per capire che noi da un momento all'altro potremmo perdere il bene più importante della nostra vita. È un bene che potremmo invece proteggere investendo 100 euro o anche meno all'anno. Quindi questa è l'assurdità degli italiani, che noi pensiamo ad assicurare la nostra macchina, che è un bene terminato a finire, a essere demolito, ad andare da un rottamaio, e anche e non è un investimento così importante, mediamente 20.000-25.000 euro, e spendiamo migliaia di euro per assicurare la macchina e non spendiamo 100 euro per assicurare la casa o l'immobile che abbiamo acquistato. Questa è una follia, lo Stato ci sta mettendo qualcosa con la fiscalità, io dico che è ancora troppo poco, perché va incentivato molto di più, ed è un discorso anche culturale che va fatto nei confronti dei cittadini, un discorso che purtroppo qui lo Stato non ha mai fatto, perché un'informazione puntuale su ciò che significa assicurare il proprio bene più importante, questo lo Stato non l'ha mai fatto. E diciamo anche che nel passato se n'è ben guardato da arrivare vicino almeno a una defiscalizzazione, non solo della polizza per calamità naturali, ma per tutte quelle polizze che sono veramente importanti per i cittadini. Allora, abbiamo compreso, Premuti, la fermo un attimo, vi fermo un istante perché vorrei far intervenire Adele da Brescia, ma quasi quasi in rappresentanza, mi dice però Peter Bescapè che forse abbiamo dei problemi con la linea, ma in realtà Adele da Brescia ci poneva una questione che sta tornando anche nei vostri messaggi SMS e WhatsApp, cioè sì, va bene, voi dite assicuratevi, avete ragione, però poi alla fine quando c'è il momento del rimborso non ho preso quello che mi aspettavo, non ho preso nulla, qualcuno ci scrive ma poi si sa che gli onesti con le assicurazioni sono sempre a mal partito e così via. Ecco, abbiamo migliorato il collegamento con Adele che ci chiama da Brescia. Buongiorno Adele. Buongiorno, la ringrazio tantissimo dell'opportunità. Grazie a lei. Anche perché volevo capire se il loro modo di trattarmi è corretto, ma ne dubito. Ci esponga il caso. Esatto, allora io sono assicurata sulla casa per tutti i danni, anche interni, esterni, vicini e non vicini, proprio un'assicurazione completa, e mi si è allagato il guardaroba sotto per una perdita interna nel muro eccetera eccetera, sono venuto il perito, ho fatto tutte le foto del caso e anche di tutte le cose rovinate, proprio anche diciamo nei sacchetti di carta, c'erano delle giacche in pelle da portare, insomma cose belle anche. Mi hanno detto di fare la lista danni, ho tutto documentato diciamo dal falegname, idraulico, tutto eccetera. Lista danni, io non ho messo il prezzo completo che avevo della roba tipo scarpe così, ho messo meno della metà prezzo perché so che le cose non sono nuove, cioè praticamente erano ancora... Sì, ha considerato anche l'usura dei materiali che sono andati danneggiati o perduti. Bravo, sì, tutto. Ho messo veramente meno della metà perché le cose avevano poca vita, ma però erano usate. È venuto un totale di 4.400 euro, mi offrono 2.000 euro. Allora, e anche le spese, una cosa... sono partiti con 2.500... E basta, cioè praticamente o prendere o lasciare. Allora sentiamo Fabrizio Premuti di Consumer Italia, ma soprattutto anche in generale, al di là del caso Premuti della nostra ascoltatrice, ma questo tipo di trattative che poi si generano sui risarcimenti che uno può ottenere dalle assicurazioni, come bisogna condurle? Allora, qui c'è un problema di copertura. Io adesso non conosco la polizza chiaramente che ha fatto l'ascoltatrice, che ha fatto Adele, però il problema è probabilmente che si rivolge a una polizza che comprende più rischi, quindi non è soltanto una polizza abitazione, ma ci sarà anche un capitale assicurato per il contenuto, così come ci sarà poi un massimale per i danni d'acqua condotta, perché quello è un tipo di danno d'acqua condotta. Sì. Quindi lì bisogna andare ad indagare su quanto è stato, cioè lì il problema è un problema di consulenza, chi gli ha fatto sottoscrivere quel prodotto, quella polizza, ha fatto una consulenza completa, perché poi ce la prendiamo con la compagnia d'assicurazioni, ma per arrivare alla compagnia d'assicurazioni passiamo attraverso degli intermediari che molto spesso non sono poi così preparati come dovrebbero essere. Quindi se la sua polizza prevedeva un capitale assicurato per il contenuto per i danni d'allagamento di 2.000 euro, è chiaro che nel momento in cui ha avuto danni per 4.000, lì va fatta purtroppo la proporzionale, cioè va messo in proporzione il capitale assicurato al danno effettivamente conseguito. Certo. E questa proporzione dà poi luogo a un risarcimento che equivale più o meno al 50% del danno effettivamente subito. Cosa diversa è quando queste polizze prevedono un capitale invece a primo rischio assoluto, e se sono 2.000 euro vanno pagati 2.000 euro, se sono 5.000 vanno pagati 5.000 e così via. E attenzione, perché qui veramente poi si apre il discorso della consulenza sulla vendita e dell'assistenza post vendita, che è un discorso su cui noi siamo, come consumer, siamo andati spessissime volte, perché vediamo fare polizze abitazione agli sportelli bancari dove per esempio non viene assolutamente spiegato nulla. Dica, metta qua una firma, uno mette lì una firma ed essere assicurato. No, non è assicurato, perché vanno indagati non soltanto i capitoli su cui viene fatto quel prodotto, ma anche quelli che sono poi caso per caso i massimali, e quindi di conseguenza le carenze, e quindi di conseguenza le eventuali proporzioni che vanno le fatte. Le temutissime franchigie anche, no? Cioè quei danni di magari di lieve entità che però non vengono rimborsati perché sono sotto la quota, l'importo che la polizza, che questo contratto che stipuliamo con l'assicurazione stabilisce che non ci verrà restituito. Quindi magari è un danno piccolo, fastidioso, che però non ci dà modo di essere coperti. Federica Pezzatti voleva aggiungere qualcosa, vedevo che annuivi. Era proprio questo, che a tutti noi, anche proprio a mia mamma, è capitato appunto di avere una copertura che per un certo massimale copriva, dopodiché se ti rompevano la porta, piuttosto che era tutto compreso in una cifra, diciamo, che molto spesso poi è anche frutto di vecchi contratti, era un contratto ancora in lire, quindi chiaramente il massimale via via non è stato rivalutato e quindi poi ci si trova con pochi soldi. Però diciamo che le multirischio abitazioni adesso, come quella probabilmente la nostra ascoltatrice, sì, c'è una nuova generazione comunque, sì, che anche con la cosiddetta smart home ti consente proprio di limitare il danno, nel senso che magari ti avvisa che, perché c'è la domotica che ci aiuta, la tecnologia, ecco, sta favorendo un passaggio, diciamo, generazionale tra le polizze, per cui è anche nell'interesse delle compagnie, in un mondo sempre più smart, fare delle polizze che vadano anche incontro al consumatore, che è abituato sempre più ad avere un servizio molto efficiente, vedi compagnie assicurative piuttosto che servizi tramite il telefonino. Quindi nel momento in cui soprattutto le nuove generazioni si trovano ad avere un problema con l'assicurazione, cioè il rischio reputazionale, perché ma sui social media puoi diffondere, certo, anche il fatto che non ti hanno coperto, c'è la cosiddetta customer experience, quindi tu devi essere sempre coccolato dalla compagnia, e su questo le compagnie sono molto indietro, se ne sono rese conto, e grazie a queste nuove tecnologie che ti consentono di rilevare fumi se l'abitazione sta bruciando, di rilevare allagamenti se c'è in corso un allagamento, ti mandano subito l'assistenza, e quindi c'è anche una prevenzione che puoi avere sui tuoi beni e sulla tua salute, che prima non c'erano, quindi certo, secondo me potremmo contare su questo per il futuro, allora, si spera. Riprendiamo il discorso tra pochissimo, perché adesso da Livia Zancanera ascoltiamo come stanno andando i mercati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Due di Denari. E te pareva la donna? A Moby Dick, ma perché te metti gli occhiali? Ma state zitta, fracicone, ma come, io stavo andando tanto bella regolare, te che fai, mi inchiodi? E inchiodo sì, c'è star semaforo, tu guidi la cazzo de cane. Ma tu guarda che mi ha combinato sta pagottara. Ma de che, amore, ma se manco te l'ho toccato sto cacatore di macchina. Modena, perché se parlavo dei cessi allora stavo a parlare di te. Ma come te permetti, a pecoraro, a caffone. Pecoraro a me, ma te vedi che se te metti le brelle pare Giuliano Ferrara. Ma vedi annate, una broccole. Ma fallo finire che sei notta dopo. Ma fammo che ammazzata, a te chi tu dice, ma tu guarda sta budellona sul volo. Vabbè, normali diverbi tra automobilisti, chiediamo scusa, c'era anche qualche parola un po' forte, ma perché? Perché stiamo parlando di assicurazioni, allora l'RC Auto è naturalmente uno dei grandi temi. Però volevo precisarvi questo. Allora, domani in edicola il nostro fascicolo Nuovo Risparmio, dedicato alle polizze assicurative e alle assicurazioni, che comprende tutto il ventaglio delle polizze, quindi stiamo parlando di polizze per tutelare la casa, per la salute, per i figli, per gli studi dei figli, insomma tutto quello che il panorama delle coperture assicurative ci può offrire. Avremo l'11 di gennaio un intero fascicolo che sarà proprio dedicato all'auto, quindi il costo dell'auto, mantenere l'auto e quindi anche se sarà assicurare l'auto. Fatta tutta questa premessa, però, insieme ai miei ospiti di questa mattina, cioè Federica Pezzatti e Fabrizio Premuti, andiamo ad ascoltare cosa ci chiede Antonio da Udine, che ci pone proprio una questione, diciamo, in tono con l'audio che abbiamo appena sentito. Buongiorno Antonio. Buongiorno, volevo augurare buone feste a tutti quanti. Oh, grazie, altrettanto a lei Antonio. Volevo chiedere un paio di cose, se era possibile. Io ho subito un incidente verso la fine di ottobre, ringrazio Dio di essere vivo, nel senso che mi sono arrivati addosso a 150 all'ora, quindi già una fortuna poter parlare. Sì. E morale della favola cos'è? Che adesso sto valutando i danni che ho subito, per fortuna ho solo ricevuto un gran colpo nella testa sul montante della porta e mi ha riportato un leggero indolenzimento della parte in cui ho ricevuto il colpo. E adesso farò le valutazioni mediche. Per il momento il problema più grande è questo, che io avevo un pick-up un po' datato, era del 2002, quindi la valutazione che la compagnia avversa da mio pick-up è di 3.000 euro. Proprio io per andare a ricomprarne uno con le stesse caratteristiche, tutto quanto, minimo devo spendere 8.000. Cioè con la stessa anzianità, con lo stesso... Anzi, con meno accessori, perché non ha il gancio traino, non ha i finestrini elettrici, non ha il clima automatico, tutte quelle cose. Io devo spendere quei 5.000 lì, come posso fare a riavere? Che fine fanno? Allora, sentiamo, chiamiamo in causa Fabrizio Premuti di Consumer Italia, che è collegato con noi. Ma a queste disparità di valutazione non dovrebbero esserci delle tabelle universalmente riconosciute e accettate, Premuti? Sì, questo è un caso in cui però il danno supera il valore del veicolo e dato che siamo in un ambito risarcitorio è chiaro che va risarcito l'intero danno al proprietario e in questo caso è la perdita complessiva del periodo del veicolo ed è uno di quei casi in cui noi stiamo lottando costantemente con le compagnie di assicurazione perché questo sia superato il valore commerciale. Il mezzo di pagamento del valore commerciale poi si fa ritrovare molto spesso nelle condizioni dell'ascoltatore a cui faccio gli auguri doppi perché chiaramente è scampato a qualcosa di molto serio in cui quello che ci danno sicuramente non basta a sostituire quel veicolo e a comprarne uno che sia anche dello stesso anno sia dello stesso tipo. Questo succede quasi sempre in Italia e in Italia in modo particolare perché noi abbiamo un parco veicoli particolarmente anziano e quando succedono danni importanti il valore del risarcimento non riesce mai a coprire poi quello che è il danno effettivo che è la perdita del veicolo. Nel caso il veicolo fosse stato riparabile avrebbe avuto qualche piccolo paracadute perché qui abbiamo delle sentenze di Cassazione che ci danno fortunatamente come dire degli agi superiori, ci dicono che possiamo spendere l'intero valore del veicolo più il 50% più tutta l'IVA necessaria alla riparazione, quindi probabilmente quei 3.000 euro sarebbero diventati più o meno 7.000, ma è chiaro che poi dovremmo percorrere probabilmente la strada giudiziaria perché in un primo momento sull'impatto la compagnia farebbe resistenza. È un problema vero, è un problema importante, è un problema su cui le compagnie sfuggono, non vogliono ragionare e non capiscono che così facendo purtroppo c'è questo senso di sfiducia aumenta, sicuramente non diminuisce ed è un problema che nasce nella RC Auto e si trasmette purtroppo in tutte quelle altre polizze che sono invece necessarie, parlo dei catastrofali, delle polizze malattia, delle long-term care. Sì. Se partiamo così partiamo male. Le compagnie devono mettersi in testa che anche in questo tipo di danni, visto che a loro piace molto il risarcimento in forma specifica, dovranno in qualche maniera venire incontro agli assicurati mettendo a loro a disposizione un mezzo che sia della stessa età, che sia più o meno con gli stessi chilometri, che abbia più o meno gli stessi comfort di quello che si è perso nell'incidente. Grazie Premuti, io chiamo in causa però la collega Federica Pezzatti perché ci capita frequentissimamente, conio questo avverbio così in modo estemporaneo, per dire che ci capita molto molto molto spesso di dover spiegare su Plus tutti i sabati piuttosto che sul Sole 24 Ore tutti i giorni, sul sito o qui a Due di Denari, come fare se però le cose non vanno come devono andare, a chi in prima istanza ci si può rivolgere. L'IVAS dovrebbe essere il primo indirizzo, credo, Federica, a cui da dove cominciare. Poi se si va per avvocati, si va per cause, allora le questioni si fanno più contorte. Ma almeno per cominciare, informiamoci sul sito IVAS. Ma diciamo che il primo passo, come sempre, è quello di fare un reclamo alla compagnia che ha 45 giorni di tempo per rispondere. Qualora non risponda, si può provare a fare l'esposto all'IVAS. Il problema è che IVAS non ha nessun potere né di imporre una soluzione né di farà, insomma, praticamente può solo fare una raccomandazione alla compagnia qualora ci siano delle violazioni, insomma, marcate, quindi fa la cosiddetta moral suasion. Invece i poveri, insomma, assicurati hanno anche poi tutta una serie di tutele che sono un po' smussate rispetto a quelle dei prodotti bancari, dove c'è l'ABF che bene o male riesce sempre... L'arbitro bancario, esatto, finanziario. Invece non c'è un arbitro assicurativo semplice, infatti è stato più volte invocato anche dallo stesso presidente dell'IVAS Salvatore Rossi, perché proprio se ci fosse, e come peraltro prevede anche una nuova direttiva europea, prevede che ci debba essere un organismo di risoluzione delle liti semplificato. Purtroppo nel settore assicurativo non c'è ancora e lo stiamo aspettando. Poi c'è tutta una serie, a seconda della polizza ci sono una serie di possibilità, c'è la conciliazione paritetica RC Auto che però che vale fino a, mi sembra, liti fino a 15.000 euro, che però non ha avuto gli effetti sperati, lì ci sono coinvolte anche delle associazioni di consumatori. Poi c'è la possibilità di fare la mediazione obbligatoria in alcuni altri ambiti, però di solito anche lì non si va a buon fine perché le compagnie non sempre si presentano. Quindi, insomma, le compagnie, diciamo che tendono a non presentarsi, tendono a non rispondere, in modo che, siccome non sempre le liti sono così elevate come importo, in pochi ricorrono poi al giudice, perché ricorrere al giudice poi prevede anche un esborso notevole economicamente. Certo, quindi, e a volte diciamo il danno che... non giustifica neppure. E poi comunque nel contratto di polizza spesso c'è scritto come in caso di lite come cosa fare, nel senso che c'è il diritto ad avere un perito di parte, quindi insomma dipende. Il settore delle polizze è molto complicato, molto complesso, e questo è anche un problema proprio per il consumatore, per capire cosa fare. E quindi molto spesso, come diceva anche Fabrizio, tu hai un incidente, ti trovi male, e quindi poi c'è questo meccanismo mentale per cui fai di tutta l'erba un fascio e dici vabbè, io non mi assicuro perché a questo punto non spendo neanche quei 100 euro perché so già che poi magari sono avrò scoperto. Magari delle discussioni, e quindi è fondamentale delle... la consulenza di cui parlava anche Fabrizio, e che in futuro anche con la nuova direttiva europea sulla distribuzione sarà un concetto molto importante da anche per gli stessi agenti e per gli stessi canali distributivi, in quanto se poi fanno della mala consulenza saranno loro chiamati a rispondere per questa cattivo consiglio. E ad esempio in Francia questa è molto diciamo, queste cause per cattivo consiglio date dai distributori sono molto molto cresciute negli ultimi anni. Quindi diciamo che il mercato si dovrà regolare anche con queste nuove direttive europee, speriamo migliori anche la reputazione delle stesse compagnie. Allora, c'è anche da dire, ma lo dico proprio incidentalmente, con la legge concorrenza che è stata approvata in agosto, il numero dovrebbe essere al 124, è previsto anche che arrivino degli sconti in più sulle assicurazioni RC Auto per la famosa scatola nera, meccanismi tracciati, certo, eccetera eccetera. Ma qui chiedo conforto a Fabrizio Premuti, mi pare che ancora non sia completa tutta la parte attuativa, stiamo ancora attendendo, diciamo, la regolazione puntuale di queste nuove norme, è così Premuti? Sì, infatti ne avevamo già parlato nel passato di scatola nera e dei regolamenti attuativi. Come avevamo anticipato, i regolamenti attuativi stanno per arrivare, IVAS sta lavorando in maniera molto allegre, ma purtroppo aspetteremo gennaio sicuramente per vederli poi licenziati. Diciamo che il meccanismo della scatola nera è sicuramente qualcosa di importante, l'ho detto e lo ripeto, per quello che è la scatola nera in termini di attenzione alla sicurezza. Ma voi pensate a quante persone possono essere salvate se c'è un'allerta che nell'immediatezza dell'incidente dà via ai soccorsi. Io la vedo come sicuramente un ausilio importante sulla sicurezza, un po' meno dal punto di vista assicurativo, perché poi voi sapete benissimo, purtroppo si parla di sconti significativi, ma non sappiamo a quanto dovranno ammontare questi sconti, perché comunque saranno decisi nell'ambito della compagnia e comunque saranno sconti che probabilmente saranno molto inferiori, scusate il gioco di parole, saranno molto inferiori a quella che è la flessibilità che già le agenzie possono dare nel far contrarre una polizza ad un assicurato. Quindi però se io vado sembra... in un'agenzia contratto, lo sconto già ce l'ho anche senza la scatola nera. Però mi sembra di capire, lei consiglierebbe la scatola nera, cioè con il massimo rispetto per il denaro, e ci mancherebbe che a due di denari vogliamo mancare di rispetto ai soldi. Però la scatola nera può essere anche una forma di sicurezza per l'automobilista, oltre che uno sconto. Assolutamente sì, tanto vero che alcuni produttori di scatole nere se ne fanno un vanto, e fanno bene a farsene un vanto, e mettendo ripetutamente sui social network il numero delle persone che sono state salvate o su cui si è intervenuti con immediatezza e che quindi hanno permesso di ridurre quelle che erano le conseguenze dell'incidente. In termini di sicurezza questo è importante. Noi pensiamo che una persona che va fuori strada e non è vista, se c'è la scatola nera viene individuata e soccorsa, se non c'è la scatola nera rischia di fare la fine che hanno fatto, purtroppo tragica, alcuni cittadini in Calabria, finiti in una scarpata, lì sono rimasti per giorni e giorni, purtroppo certo. Sono stati ritrovati non più vita. La fermo perché è il momento di dare le informazioni sul traffico, autorizziamo qualche gesto scaramantico vista la vicinanza tra l'argomento e gli aggiornamenti sulla viabilità. Tra pochissimo. Motori elettrici simotopgroup.com, la qualità che ha conquistato l'Europa. Vi presenta... Due di denari. Money, get back. E qui Chiara Compagnoni, che mi ha aiutato a preparare questa puntata e mi assiste in regia, ha saputo da Marco Lombardo, che è in vacanza in questi giorni, che questa canzone e i Pink Floyd in generale mi piacciono molto, e quindi ha subito provveduto a inserirla in scaletta. Stiamo parlando di assicurazioni, ma poiché in diversi ci avete scritto, grazie come sempre dell'attenzione, ci avete scritto al 349-238-6666, sms o WhatsApp, qualcuno anche per intervenire in diretta 800240024. Molti di quelli che ci hanno scritto ancora sulle bollette a 28 giorni. Ci dicono: ma avete detto una cosa sbagliata, perché in realtà poi ce li aumenteranno lo stesso, ci faranno la fatturazione a mese, però gli importi resteranno uguali. Sì, è quello che spiega Andrea Biondi oggi sul Sole 24 Ore, che abbiamo detto c'è un aumento di oltre l'8%, ma questo aumento noi lo abbiamo subito già dal 23 giugno fino a tutto quest'anno. Quindi la decisione dell'AGCOM, di cui vi ho segnalato l'articolo, di cui che vi ho segnalato in apertura, riguarda questo periodo, cioè dal 23 giugno 2017 a tutto l'anno, finché appunto non interviene la nuova norma che impone la fatturazione mensile. Lì bisogna in qualche modo, dice l'autorità per le comunicazioni, restituire agli utenti. Ribadisco, perché vorrei essere molto chiaro e evitare tutti i possibili fraintendimenti, non è detto che quello che richiede l'AGCOM sia poi quello che le compagnie faranno. molti ci hanno anche detto, ma già mi hanno comunicato che comunque per l'anno prossimo sì, si torna alla fatturazione mensile, ma l'importo non cambia da quello che ho pagato con la fattura a 28 giorni. Anche questo è stato riferito più volte qui a Due di Denari, anche lo riferisce oggi Andrea Biondi. Vedremo che cosa potrà accadere per questo recupero. E torniamo invece a parlare di assicurazioni, perché dovrebbe essere in linea con noi Maurizio da Torino, che sposta un po' l'attenzione anche sul piano pensionistico, quindi non solo le RC auto, non solo coperture diciamo per la casa, ma adesso pensioni. Maurizio, buongiorno. Buongiorno a voi. Ci dica, qual è il suo caso? Intanto grazie per avermi chiamato. Grazie a voi. Molto grazie rapidamente, un motivo per cui ci siamo discostati dalle assicurazioni per i pensionistici è legato al fatto che in passato ci siamo legati a un broker assicurativo e una notissima e grandissima azienda di assicurazioni per pensare al futuro. E dopo X anni è venuto fuori uno scandalo a livello regionale, finito pure sul giornale, questo signor Otto, che aveva truffato tantissime persone, ivi compresi anche i propri familiari. Noi ci abbiamo rimesso circa 20.000 euro. Presentandoci presso l'assicurazione, la stessa ci dice: si mette in coda, consideri che ha truffato pure sua moglie. Ma scusate, come cioè, mai? Cioè, la moglie del broker, chiaramente, sì. Come mai l'assicurazione non risponde di nulla? Cioè, ci siamo dovuti arrangiare per conto nostro, ma è assurdo. Io oggi vorrei fare un piano pensionistico, ma ho il terrore di avvicinarmi a chiunque. Certo, sentiamo Fabrizio Premuti. Ma le assicurazioni sono tenute a rispondere di questi, come dire, di queste scorrettezze, anzi dei reati, perché qui penso che siamo direttamente nel codice penale, che possono essere commessi dai broker, Premuti? Allora, come al solito, il reato appunto è penale, quindi corrisponde direttamente alla persona che il reato l'ha commesso. C'è un ragionamento diverso da fare, che quando uno entra in un ufficio assicurativo, contrae una polizza, ha in mano degli stampati che sono quelli di quella compagnia, anche quella compagnia per responsabilità oggettiva deve rispondere al danno che è stato causato con la sottrazione dei denari all'assicurato. Quindi la compagnia sicuramente risarcirà gli assicurati di quanto sottratto. Vero è, e su questo lo do per scontato, che sarà necessario fare poi un'attività giudiziaria per ottenerli, perché su questo le compagnie certamente non sono tempestive, cercano di fare resistenza all'infinito, cercano di non corrispondere ciò che è stato sottratto all'assicurato, e chiaramente la risposta unica la può dare poi il giudice. Quando si va poi davanti al giudice, lì purtroppo è come sempre un terno all'otto. Se il giudice lo troviamo ben disposto, probabilmente avremo quello che ci è dovuto, ma non sempre il giudice interpreta poi nella maniera che noi ci auguriamo, e potrebbe anche dar ragione alla compagnia e quindi decidere di non corrispondere alcuna somma all'assicurato. Attenzione che in questi casi andare da un broker, il broker rappresenta più se stesso come assicuratore che la compagnia d'assicurazioni. È molto più semplice il percorso quando si entra in un'agenzia che ha lì il proprio marchio, e quindi io sto entrando in una in un ufficio che è di quella compagnia, al di là di chi è l'agente. Quindi questo diventa un percorso molto più lineare. Infatti Federica Pezzatti annuiva, perché a parte che su Plus ne raccontate di queste pagamento, no? Come avviene anche nel settore della promozione finanziaria, bisogna sempre stare molto attenti a come si paga, cioè mai pagare in contanti, ma neanche con la pistola puntata, voglio dire, perché quella è proprio la classica cosa che difficilmente poi che si induce può in tentazione, potremmo dire. Anche perché poi sappiamo benissimo che l'Italia è un paese, purtroppo, ahimè, non qui presenti in sala perché siamo dipendenti, però si sa che purtroppo c'è una tendenza un po' a generare denaro in nero, e quindi chiaramente c'è sempre la voglia di investirlo nei modi più svariati. Però in generale, quindi, bisogna sempre fare assegni intestati alla compagnia. e anche nel caso in cui appunto ci sia un broker di mezzo che comunque, quindi in questo caso questo broker probabilmente rappresentava più compagnie, per cui, come diceva anche Fabrizio, è difficile provare a meno che non si abbiano dei documenti con il marchio della compagnia, eccetera. Comunque, ecco, le modalità di pagamento devono sempre essere tracciabili, preferibilmente anche il bonifico, e quindi questa è una prima accortezza che bisogna sempre considerare. Ma tutte queste cose sono spiegate anche nella nostra guida che pratica distribuiamo domani, dove ci occuperemo appunto, anche non abbiamo parlato, delle polizze di investimento che stanno molto cambiando, anche le polizze tradizionali a gestione separata, che hanno vissuto un momento abbastanza favorevole proprio perché con i tassi a zero riescono ancora a retrocedere almeno insomma un 1-2% all'anno, poi dipende chiaramente, e si ha la sicurezza del capitale soprattutto. Anche queste polizze stanno cambiando pelle perché c'è un nuovo regolamento che le riguarda, che riguarda queste polizze, quindi è tutto spiegato nel nostro fascicolo di domani. Quindi... Ecco, c'è una domanda per unire casa e assicurazione. Spesso si accende un mutuo e ci dicono faccia la polizza, ma uno è obbligato, allora è prudente avere una polizza. Ma siccome avviene in modo contestuale, cioè ecco, in uno, quindi, quando diciamo si va che verso questa la è banca... un'annosa problematica, perché, proprio perché negli scorsi anni c'è stata questa tendenza: ti do il mutuo, se ti assicuri con me, paghi tanto. Comunque erano dei bei premi molto elevati rispetto al contenuto reale della copertura, tant'è che la stessa distribuzione si tratteneva quasi il 50% del premio, quindi c'erano queste grandi polizze collettive, diciamo tra virgolette, e poco personalizzate e abbastanza care tendenzialmente. Quindi è intervenuta l'IVAS proprio per ribadire più volte che non è obbligatoria la polizza, e qualora lo diventi o comunque qualora la banca tenda a desiderarla, adesso c'è la possibilità di portare una propria polizza, quindi io mi posso tranquillamente assicurare all'esterno della banca e far valere la mia proposta che ho avuto all'esterno, che di solito potrebbe anche essere più favorevole, quindi non c'è nessun obbligo, anche se devo dire che comunque queste polizze hanno avuto il pregio, in periodi magari di elevato incremento della disoccupazione, di proteggere, per cui non vanno di per sé demonizzate, secondo me, a mio avviso, perché grazie proprio alle polizze legate ai mutui, vedi anche incendio e scoppio obbligatorio, è passato proprio il concetto di assicurare la casa, perché se noi abbiamo un elevato tasso tra virgolette di assicurazione sulle case dall'incendio, è proprio perché ci sono magari sottostanti dei contratti di mutuo che prevedono l'obbligo di stipulare la polizza di questo tipo. Per cui in realtà purtroppo nel nostro paese molto spesso quello che è coercitivo diventa poi una buona abitudine, però in tutto ciò ci deve essere una giusta misura, infatti le authority tendono a intervenire quando c'è da calmierare i prezzi e da evitare delle politiche forzate di proposta, e su questo c'è molto da lavorare. Perché credo che poi emerge anche da questa nostra chiacchierata con te, con Fabrizio Premuti, con gli ascoltatori, a volte un po' noi assicurati siamo grossolani, cioè come notiamo a volte decidiamo degli investimenti in modo impulsivo e senza ragionare bene su dove stiamo mettendo i soldi. Qualche volta magari sulle polizze dovremmo forse spendere qualche momento in più e leggerci, farci spiegare certo bene le condizioni. Premuti, c'è un po' questa pigrizia anche nostra, senza voler giustificare poi i comportamenti scorretti delle assicurazioni, per carità. No, assolutamente, non vanno giustificati, anche perché molto spesso sembrano quasi a voler colpire l'assicurato, il cittadino, quindi assolutamente non giustifichiamo niente, anzi cerchiamo di combatterli, però è anche vero che c'è questa pigrizia da parte nostra quando andiamo in un'agenzia o andiamo in uno sportello bancario o alle poste e ci mettono davanti le condizioni di polizza, noi le sottoscriviamo senza neanche sfiorarle con gli occhi. Andrebbero invece lette. Io consiglio sempre, quando si va per un prodotto importante, prendersi le condizioni di polizza, portarsele a casa, leggersele con calma, oppure farle vedere a un esperto, andare in un'associazione consumatori e poi sottoscrivere, non sottoscrivere al buio, perché l'abbiamo detto anche nel corso di questa trasmissione, molto spesso le polizze, le condizioni di polizza nascondono delle carenze, degli scoperti, delle franchigie che poi andranno a colpire noi nel momento in cui ne abbiamo bisogno. Poi chiaramente, d'accordo con Federica, assolutamente non vanno demonizzate, perché ad esempio proprio le polizze sui mutui negli ultimi anni hanno protetto quelle persone che purtroppo hanno perso il lavoro. Certo. E il mutuo si è continuato a pagare da solo, quindi è chiaro che in quel caso avrebbero avuto dei problemi enormi nel poter mantenere l'acquisto. L'acquisto invece è stato mantenuto proprio grazie all'intervento del produttore assicurativo. Grazie a Fabrizio Premuti, grazie a Federica Pezzati. Allora domani con il Sole 24 Ore, il fascicolo dedicato a